l'archivio dell'Atnia Viscosa. L'Atnia Viscosa di via Prenestina è stata una delle maggiori fabbriche di Roma tra gli anni 20 e gli anni 50 del Novecento. A partire dalla lavorazione chimica di fogli di cellulosa di legno, l'Atnia produceva fibre sintetiche. Il lavoro era svolto in gran parte da donne ed era molto nocivo. L'esposizione prolungata al solfuro di carbonio poteva condurre infatti a una gravissima malattia professionale con effetti irreversibili sul sistema neurologico. Molte lavoratrici ammalate finivano rinchiuse in manicomio. La storia di questo archivio aziendale è molto particolare. Ciò che resta dell'archivio, in particolare l'importante e ricca documentazione dell'ufficio del personale, ma anche materiale prodotto dagli uffici tecnici, è stato rinvenuto e salvato dal gruppo di abitanti del quartiere che nel 1995 ha occupato alcuni dei capannoni abbandonati per sventare un tentativo di speculazione. Da allora, con la costituzione dell'Associazione Culturale SNIA, l'archivio è stato conservato nell'ambito del centro sociale, nella consapevolezza della sua rilevanza storica e locale. Sabato 21 febbraio invece l'archivio e il centro di documentazione territoriale sono stati spostati e intitolati a Maria Baccante, una partigiana e operaia della SNIA Viscosa, protagonista del lungo sciopero del 49. È cosmo, vie calcile, si lo cote. Nel 49 la fabbrica della SNIA quindi fu occupata e ci fu uno sciopero che durò molti mesi e furono 34 giorni, scusate, non mesi, di difficile occupazione e che molte operaie pagarono con il licenziamento. Una di queste operaie era Maria Baccante, donna alla quale è stato dedicato l'archivio storico che potete andare a visitare alla via SNIA Viscosa, al Parco delle Energie. Noi siamo andati il 21 febbraio all'inaugurazione di questo archivio, è stato molto interessante, c'è stata anche c'era ancora insomma una delle donne che ha lavorato lì alla SNIA che ha raccontato degli scioperi insomma del lavoro partigiano che hanno svolto in quel periodo. Ovviamente questa presentazione durava insomma quasi 4 ore e noi abbiamo registrato un po' la voce delle donne che c'erano lì in quella giornata, abbiamo cercato di un po' comprimere queste 4 ore in 30 minuti, sono abbastanza interessanti, c'è tutta la storia della fabbrica e delle donne che lì lavoravano, anche del modo in cui tutti questi documenti sono stati recuperati e come è stata scoperta piano piano la storia di Maria Baccante. Questo è un audio che dura una trentina di minuti, è un po' lungo però in realtà è molto fruibile, interessante, ascoltabile, quindi noi ve lo mandiamo e vi ricordiamo che siete sempre all'ascolto del martedì autogestito da femministe e lesbiche e ci risentiamo tra una trentina di minuti. Allora, buongiorno a tutti, il mio sarà un intervento molto poco accademico, devo dire, ma non nascondo che lascerò spazio anche un po' all'emotività. La ricostruzione della storia e della vita di un'operaia che appunto è Maria Baccante, a cui oggi intitoliamo ufficialmente il centro di documentazione. Nel 2006 con Roots, i progetti nella memoria, abbiamo deciso di ricostruire con la classe di moda del Virginia Woolf, che è un istituto superiore del quartiere, la storia ipotetica di un'operaia, facendo immaginare agli studenti, alle studentesse prevalentemente, quale fosse l'ambientazione storica, sociale, di lotta di un'operaia durante la guerra. E quello che ne è uscito fuori è un diario di lotta. Uno dei documenti che abbiamo visionato con le studentesse, diciamo una delle carte che abbiamo sempre avuto sotto mano nella ricostruzione della storia della Viscosa, è quella che vedete, non so se si vede, la numero uno. È un articolo di Noi Donne del maggio del 49 in cui una giornalista riesce a valicare i cancelli della Viscosa che nel 49, marzo-aprile del 49, viene occupata e autogestita dagli operai per circa 33 giorni. quell'articolo, ripeto, ce l'abbiamo avuto tra le mani, ce l'avevamo tra le mani già da diversi anni, ma non avevamo mai fatto caso che alla terza colonna si parlava di Maria Baccante. Il nome esatto è uscito alla fine da questo articolo, che tra le tante intervistate da questa giornalista nel 49 rievocava i suoi ricordi di vita partigiana. Quindi ci si è illuminato un mondo. Effettivamente la memoria orale di Giuseppe Galafati coincide con un documento scritto, e quindi, avendo a disposizione la possibilità di consultare le schede, e con un pizzico di fortuna, perché ripeto, alcune schede sono andate perse, altre bruciate, quindi il materiale non è completo, con un pizzico di fortuna abbiamo trovato la cartella del personale completa di Maria Baccante, che, se sfogliate le foto, si vede il tesserino che timbrava periodicamente, si vedono le punizioni alle quali veniva sottoposta. Non era una tipa tranquilla, si direbbe, anzi era ribelle dalla nascita, tant'è vero che una delle punizioni che potete vedere è che schiaffeggiò un'operaia a fianco, probabilmente per un litigio sul lavoro. E da questa scheda poi ci siamo fermati un po' qui. Quello che ci colpì molto di questa scheda di Maria Baccante, che appunto era una donna non romana, come molte delle operaie che lavorano nella fabbrica della Viscosa, come molte delle persone che cominciarono ad abitare e a popolare questo quartiere, non venivano da Roma, ma venivano o dalle regioni limitrofe o dalle regioni più povere dell'Italia in cerca di lavoro. E fondamentalmente aveva la quinta elementare, così era segnato sull'anagrafica, ed era stata assunta nel marzo del 46 perché reduce di guerra, partigiana. Quindi c'è stato già nel 46 tutto un procedimento che metteva in contatto i luoghi di lavoro più grossi della città di Roma, ma anche d'Italia, per assumere chi aveva combattuto per la libertà, per quelli che venivano riconosciuti, e per quanto questo fosse poi riconosciuto in grande misura dalle istituzioni. Quindi Maria viene assunta nel 46 e verrà licenziata nel 49. Solo in un anno, per 4 mesi successivi, Maria Baccante chiederà 4 volte il cambio degli zoccoli. Lavorava in un reparto chimico. La Viscosa era una fabbrica chimica, quindi da questo abbiamo dedotto, perché poi le carte un po' bisogna anche interrogarle, che lavorava ad un reparto dove l'usura chimica che arrivava dai prodotti che utilizzava usurava gli zoccoli e chissà cos'altro, perché la salute degli operai ne risentiva altamente. E quindi fu costretta a richiedere in continuazione, mese dopo mese, gli zoccoli che venivano messi a disposizione dall'amministrazione centrale. Maria verrà licenziata nel novembre del 49. Nel novembre del 49, insieme a lei, verranno licenziate diverse altre operaie, e sarà il primo grosso turno di licenziamenti che avviene dopo lo sciopero di cui vi parlavo prima, di cui ha parlato l'articolo di Noi Donne del 49, di cui probabilmente lei fu una delle maggiori agitatrici, così come ci ricorda l'articolo del 49, ma come anche possiamo presupporre dal resto della vita che poi abbiamo ricostruito nel corso del tempo. Per una serie di vicissitudini abbiamo dovuto interrompere la ricerca, prima tra le quali siamo nel 2007, Pulcini interviene di nuovo sul lago e voleva costruire in simbiosi con l'amministrazione una delle piscine di nuoto, quindi veniamo coinvolti in altre mobilitazioni che bloccano questa speculazione. Altre vicissitudini bloccano di lotta con il centro sociale la ricerca su Maria Baccante, ma non ce la dimentichiamo. E ricercando per caso tra i documenti dei processi politici o civili che vengono conservati nell'archivio di Galla Placidia, che si trova proprio qui vicino, troviamo un processo a carico di Maria Baccante, datato settembre del 1943, piena guerra, inizio della resistenza, e Maria viene processata insieme a altre 2 donne perché era stata trovata in possesso di coperte e lenzuola che aveva preso da una stanza chiusa dell'appartamento dove lei era in subaffitto. La proprietà teneva chiusa a chiave tutti i possedimenti praticamente dentro una stanza. In tempi di guerra, in tempi di magra, questa stanza viene forzata e si prendono due coperte. Quegli anni i processi sono pieni per Roma di atti di questo genere e sono uno spaccato molto curioso della Roma degli anni della guerra e della resistenza. E quindi che cos'è che ci colpisce di questo nuovo ritrovamento? Che c'è l'indirizzo di via Fortebraccio. Maria Baccante viveva a via Fortebraccio 36, proprio di fronte alla porta di Angelo Galafati. Quindi riusciamo a ricostruire, ad avere un'altra coincidenza non casuale a questo punto, che ci conferma quanto fonti orali e fonti scritte stessero già dicendo. Interrompiamo di nuovo la ricerca, dobbiamo inaugurare questo archivio. Facciamo una piccola presentazione a Logos del 2011, in cui vogliamo parlare della Viscosa. Logos è un festival di letterature che si fa a ottobre giù al Quadrato, nell'area che vedete insomma appena scendete dal parco, e lì conosciamo Aud, che è una studentessa dell'Università di Saint-Étienne, la quale si appassiona della ricerca di Maria Baccante e delle lotte, degli scioperi del 49, perché li mette in relazione con gli scioperi dei minatori del 48 a Saint-Étienne. Questa collaborazione porta ad un rinnovo di interesse sulla figura di Maria Baccante, che verrà portata anche in Francia, messa a confronto ad una sindacalista comunista di Saint-Étienne. Andremo a Saint-Étienne, una piccola delegazione di noi in tre persone, e comincia un gemellaggio che ci permette di riapprofondire la storia di Maria Baccante. È lì che andiamo a cercare la famiglia. L'avevamo già chiamata nel 2007, andiamo direttamente all'Aquila. L'anno scorso una piccola delegazione di noi va dai nipoti ed è qui che conosciamo, diamo un colore, uno spirito a quelle che sono carte e parole. Chi è Maria Baccante? Maria Baccante nasce all'Aquila, lascia la propria cittadina di origine non tanto per bisogno economico, per venire a Roma a lavorare, ma per una scelta, la scelta di uscire dalla convenzione o da una vita convenzionale, di prendere in mano la vita in un determinato modo, di segnare la propria vita. Viene a vivere a Roma, viene a vivere al Pigneto. Nel 43 entra immediatamente nella clandestinità, legata al gruppo di Bandiera Rossa di Angelo Galafati, di cui ritroviamo le carte nel fondo Corvisieri donato al Museo Storico della Liberazione da poco, e lì ricolleghiamo la figura di Angelo Galafati e di Maria Baccante al gruppo Terza Zona di Bandiera Rossa, Esquilino, Grotta Rossa. Grotta Rossa non la località, ma probabilmente una di queste grotte di cui Roma, di questi buchi di cui Roma è pieno, dove probabilmente nella clandestinità si riuniva il gruppo. Angelo Galafati, Giuseppe Galafati ci aveva raccontato che infatti l'attività del padre, anche Romano l'aveva confermata, era proprio quella di andare a via Bixio, che è una via vicino a Piazza Vittorio, dove c'era un bar, chiedere cappuccino e cornetto e farsi seguire da questo cappuccino e cornetto, che in realtà era un prigioniero vestito da tedesco, quant'altro, camuffato, che doveva poi essere portato in quartiere per essere protetto e nascosto. Questo cappuccino e cornetto veniva nascosto e protetto in una rete di solidarietà fittissima che il quartiere Pigneto Prenestino, così come tantissimi altri quartieri, aveva messo in opera e in atto durante la Resistenza. E via Fortebraccio era una di queste grosse roccaforti gestita da Angelo Galafati e da Maria Baccante, specializzata inizialmente il lancio di chiodi a quattro punte e di trasporto di armi. Successivamente si dedicherà soprattutto dalla prima del 44, queste ci raccontano le carte di Corvisieri, mettono fretta, di occuparsi fondamentalmente della messa in salvataggio di prigionieri. E infatti quando Angelo Galafati fu preso in quella retata, casa sua era piena di gente che veniva nascosta e protetta, e stavano anche a porta aperta, ci raccontano i nipoti, perché tanto erano sicuri del vicinato e di quanto fosse solidale il vicinato, che nessuno si aspettava che qualcuno potesse entrare e poi attivare quello che ha attivato, cioè una deportazione prima in carcere e poi, essendo a ridosso dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, direttamente alle Fosse Ardeatine. E questo dato della vita partigiana di Maria Baccante coincide con quanto ci racconta il Recomp Partigiani, che è l'archivio che si trova al centrale, che appunto la titola come sergente di gruppo di Bandiera Rossa, e così ce la ricorda anche il figlio che abbiamo intervistato recentemente, Franco Meschini, il figlio di Alberto Meschini, compagno di battaglia e compagno di vita appunto di Maria Baccante. Maria Baccante, quando sarà licenziata nel novembre del 49 dalla Viscosa, abitava a quell'epoca a Pietralata, sarà costretta ad abbandonare la casa di Pietralata e andare viene ospitata, grazie anche a un'operaia compagna che aveva avuto la sua stessa sorte, verrà ospitata a Santa Maria della Scuola, la scuola elementare di Trastevere, che all'epoca aveva raccolto una grande quantità di sfollati. Questo ce lo racconta Meschini Franco, figlio di Meschini Alberto, militante nel Partito Socialista e durante la guerra nelle Brigate Matteotti di Trastevere. Ho finito. Perché alla fine abbiamo scelto Maria Baccante? Perché appunto è donna che ha scelto di uscire dalla vita convenzionale, è partigiana che lotta contro l'occupazione nazifascista e la privazione della libertà, è operaia che decide di combattere contro i padroni e il padronato. E quindi alla fine di questa ricerca siamo ben contenti di non aver avuto più dubbi di dedicare il centro di documentazione a quest'operaia. Saluto tutti i presenti, faccio presente che io ho lavorato qui nello stabilimento fino al 1953 e sono entrata nel 1946. Dopo 7 anni c'è stata la manifestazione occupazione di fabbrica e poi io sono stata trasferita all'anificio Gatti, perché fece lo stabilimento Gatti fece una richiesta di personale, eravamo in 20. E tra queste 20 c'ero anch'io, perché ero orfana di mio padre deceduto per infortunio, e sono stata assunta lì e ho visto un po' tutto. Qui sopra c'era il convitto delle suore, c'era la mensa che venivamo a mangiare su, c'era l'asilo per le donne che avevano i bambini. Io ho conosciuto delle persone. Voglio fare presente, chiedo se c'è qualcuno, qualche figlia di queste persone che l'hanno lavorato qui. C'era la direttrice dove io lavoravo alla spadura, dove si legavano le matasse che poi passavano in battitura, venivano controllate. E questo edificio che sta qui sulla Prenestina, che è tutto rotto coi vetri, io parlo in parole povere, sono del popolo, sono popolana. Mi fecero venire qui a fare una prova che dovevano essere, non so adesso come dire la parola, fare delle rocche, delle queste fatte a coni che venivano poi portate per fare, perché viscosa era una fibra, non so che c'era qui, c'era l'acido. Io ho avuto due zii che hanno lavorato qui al come si dice, al reparto filatura, non lo so. Mi fecero portare lì a fare una prova, e poi dopo questo edificio che ancora esiste era appena montato con le macchine, e non è stato mai usato. Io parlo in parole povere, ancora esiste. Io per esempio il 25 di aprile, io abito a Tor Sapienza, 25 di aprile passavamo io e mia figlia sulla Prenestina, abbiamo visto i cancelli aperti, giusto? Ma io non lo sapevo. Siamo passati, ho detto ti devi fermare perché io voglio entrare a mettere i piedi, è successo l'altro anno, il 25 di aprile, a mettere i piedi dopo 60 anni dentro questo. Io sono rimasta quando ho visto tutti questi capannoni, tutti abbandonati, tutti decadenti, e non sapevo neanche che esisteva questo laghetto. Non lo sapevo, perché la spadura era proprio sulla via Prenestina, il padiglione, che c'era lo spaccio e c'era il negozio che vendevano anche i tessuti. Ho detto io devo entrare qui, stava chiudendo il cancello in quel momento, perché erano, non so, le 4:30, così, volevamo andare alle Fosse Ardeatine. Ci siamo fermate. Ho detto, senta portiere, stava chiudendo. No, lei mi deve far entrare perché io devo mettere piedi dopo 61 anni. Il portiere, quando ha sentito così, venga signora. E poi, un signore o il portiere, non lo so, non me lo ricordo perché ho 85 anni, quasi 86, e mi ha detto, aspetti che io gli presento una signora, che sarebbe la signora... La professoressa, vero? Va bene. Io gli devo presentare una... E così ho conosciuto la signora. E così niente, mi ha telefonato pochi giorni fa, ha risposto mia figlia, ha detto se vuoi venire c'è un'assemblea. Sì, io ho approfittato perché a me veramente, quando io metto piede qui, mi emoziono.